L'inno della parola di Dio. Come cercare le orme di Dio. Per trovare le orme di Dio dobbiamo cercare la sua volontà, cercare le parole di discorso.